migliori, adesso vediamo, se mi cambia l'onore del blocco, prendo più. Ci danno in sangue, ma se vuoi manco bruciare, probabilmente si dà ciambella a sedersi. Ci devo preparare, perché non ne sopportava più dolori, furti, sangue, ci devo abbonire un pannolino, ha detto che pare un riccio. Non so, no, io la tenevo mai, mai, mai, mai, non sono mai preparate. Sono di gente, sì, come di denti. Succede purtroppo così, ma comunque ne vado di non bene, roba gasata, nulla, né birra, nulla, né alcol, nulla, zero, di queste cose di non bene provvisoriamente, poi se non passa ho già sono contento a farmi operare. Lui magari ha esagerato in qualche cosa in questo periodo, cosa, ma magari facendo un po' di dieta, mangiando roba in bianco, senza troppi condimenti, non mangiando salumi, eccetera, eccetera, riesce a regolare, dai. Secondo me ho attaccato i salsicci, il pepe e mezzo ci metto, va, no, più, mai più, mai più. Vabbè, là. Allora consiglio, basta la birra, che non lo beppe che la birra, lo stesso problema tuo ce l'ha il mio collega, che beve birra. Ciao Gian. Ciao, io non bevo birra, io sono da un po' non bevo birra. Io l'estate, l'estate la bevo, ma così capita ogni tanto, ma di morte di papà di un bello un bicchiere se capita, ma non vado a cercarla. L'estate sì. Ma faccio quei piatti belli, tipo patate cotte, qualche bottiglia me la bevo, però non vado a cercarla, no, assolutamente. Un casino, poi mi ha detto che non devo mangiare agrumi, non devo mangiare quello, non devo mangiare quello, ah, con l'estate io devo mangiare, cagnola. Mangia di tutto, fastidini, ti lascio così venti. Ti lascio così venti, la magnata nel culo, ti lascio così venti. No, che è fastidioso, mi credi, no, che è fastidioso. Sì, io non l'ho mai avuto, però, già, solo che sono fastidiosi. E beh, doppio root. Ma come faceva lavoro, il cane morto? No. Il cane morto, ok. Ma tu l'hai avuto? No, oggi l'ho avuto, una mattina. Non è solo reperibile, rottura di palle. Sì, ma non so se questa settimana finisco, se ne fa fare anche la prossima. Mi ha detto che già me lo diceva lui quando terminare, quindi devo proseguire. Io glielo ho detto a Luca che mio padre, quando era vivo, soffriva di morrui. E mi prendeva questa erba che cresce sui muri, selvatica, sembra erba, sembrano piante grasse, c'ha le foglie che se tu le schiacci esce l'acqua, e ne metteva a bollire e con questo infuso si faceva il bidet, le ha fatte seccare, non ne sono più uscito. Cos'è l'aloe, come si chiama? Non è l'aloe, no, è una pianta che si arrampica ai muri. Poi a me me l'aveva fatta vedere, però non è che me lo ricordo bene, e la prendeva da Montefurro, dice che cresce lì a Montefurro, via Baldetta Prolungamento, e la andava a piedi e la prendeva, poi si faceva questi infusi, se la fate per un po' di volte ed è passata. Invece me la giuria, già ne sanno. Sì, vabbè, ma per quello già c'è la preparazione acqua, anche in pomata, lui che te le fa passare. Mio socio ad esempio non prendeva, non le supposte, prendeva questa pomata, ci metteva tutte le notti questa preparazione acqua e andava di lusso, capito? Sono ancora finito, tipo alla Madalena, sono rimasti i giro sette negri, mi pare. Quando non mangiavo, ovviamente lo doggio di ricopolo. aspetta, lo sta coprendo. Salutalo, Gianpa, se mi senti tanti saluti. C'è questa, non so che mi sembra, Elena mi sembra. Sarà Volvi, quella dove te ne dico. Finito, io quest'anno ho voluto fare lo stesso un po' le cose troppo ben grande, e allora adesso tagliamo. Tagliamo così, capito? Bisogna farla bravi, no, andiamo a fondo. Ti immaginate già, io sono a casa anche da San Francesco che c'è andato solo a metà, 350.000 euro. Infatti mi do un attimo, vado con Salvatore Rovella perché c'è un suo collega che vuole prendere la parte alta, perché la parte alta sono due appartamenti accoppiati di 200 più 200 metri quadri, quella di sotto invece l'hanno già comprata, ancora ci hanno fatto la metà, quindi bisogna che facciamo un saldo per stare un po' meglio. E che macchina è preso? Una Falone, ma che tipo? C'è con 64? 64? Il cazzo di Amari pure quello che piace, 64. 147 ho preso, GTD 16 valvole, però il modello M, quella con l'interno in pelle, cioè 170 cavalli, una macchina a 240 all'ora. Una bestia. Costa Mantanella, una trapazia, non dovevo fare, vabbè, pazienza. Ma non vale pesa? No, e allora quando guardamela io, mamma così. Già te l'ho presa, era di una persona che conoscevo, pochi chilometri, nuovissima, sempre in garage, e l'ho presa usata. Cazzo, per guardamela io non faccio mai. Quella col modello l'M 147M, il 1009 GTD 170 cavalli, mi sembra che sia 60-170 cavalli, cos'è il genere? È un aereo, per in pelle e tutto. Cosa fa già? Anche quello non ci voleva, vabbè, comunque. Pazienza, non c'è un problema. La sindrome della Shopping ti è venuta. Ma allora per fare stare smart, già, per una macchina della città, ma anche quando uscivo mi veniva la circolazione, ma passato una macchina, non la vi, ma nel alghero, nello scorrimento veloce di tra due mai, andiamo a mirare di voce. Invece adesso faccio io il contrario, capito? Quando cammino saetto forte. E vabbè, a parte quello già, quelle sono cose, vabbè. Ne ho venduto due però, stai attento, adesso ne abbiamo due solo, noi avevamo una piccola, prima ne avevamo quattro anche. Andato anche la Peugeot, tutto, liberato tutto. Adesso ho liberato tutto, però c'è sempre il però. Che di naso sempre lì, se non venuto alla. Non c'è niente da fare. Hai visto il casino? Cioè, i soldi notte del Limo sono stati usati per coprire i debiti del Monte Paschi di Siena. Cazzo, ma tu ti immagini cosa sta succedendo in Italia? Io meno male quest'anno Limo non li ho pagati. Limo? Sì, non li ho pagati perché ho versato più contributi di quello che dovevo versare e quindi li hanno scalati da lì. Che il Limo di qua ho pagato, dalla casa del Calmato ho pagato neanche 50 euro, invece ho le trazioni, ho tutto eccetera. Il problema è che tutti gli altri grossi. Mamma mia, sono tanti anni con lo Salvatore. Speriamo che questo se la prenda o... Allora si può respirare, se no, giù. Davvero? Roba di casino stanno facendo, ui, se non ci vedono sottoterra non sono contento. Sottoterra solo ci vogliono, chiaro Gianni, no beh, siamo nati per soffrire, ma no, io comunque quando ero attaccato a contro a poco, che da noi ha bloccato straordinario, hanno fatto un casino nero, perché... La regione non me ne... No, a me la regione non ha tutti i conti, io sono un tuo dipendente e tu a me mi dai quello che mi spetta. Cioè, non mi dica più, ho fermato la macchina io la settimana scorsa. sono messo in ferie, ma in ferie obbligate, mi lo dico a te già, perché ho rischiato di brutto, capito? Non c'è niente da fare, tanto a me, non è che non ho troppo l'asio prima di andarmi via, e... no, mi mangio a fare il calcio, quindi ho bisticciato, ho fermato una macchina, c'è stato un mezzo litigio, dicevo bisogna riposo, sì infatti bisogna riposo, questa è una delle ferie, ma la vado a fare, oh vado, vado, ti preoccupare, va, sono andato, sono entrato lunedì e siamo sempre punti a capo. Un altro giorno mi ha telefonato, c'era una sorta, abbiamo stato riparare le macchine adesso. Io ero fuori zona perché mi hanno chiamato per un consulto e subito hanno visto la macchina fuori zona, mi hanno telefonato, dice ma lei lavora a Prebaneba? No, io sono fuori zona per questo e questo motivo. Se vuole chiami il mio dirigente che è già al corrente. E allora fa rientri di 8 km, perché lui è fuori zona ai gruppi, cioè funziona di usci. Tu vai a lavorare e ti controlla il culo del culo dall'auto, io mi sono rotto le spalle e infatti non mi muovo più, assolutamente. Ma ci avete il capo vi controlla? Ci avete qualche sistema per controllarlo, GPS, cosa c'è? Che satellitare ci abbiamo? Ci abbiamo nella macchina, ci abbiamo satellitare, ce l'ha detto in ufficio che non fa niente la mattina e la sera, e per computer si siede, si accende la sera e per controllare i movimenti delle macchine, se ti vuole fuori zona ti telefona il telefonino. Ah ecco, ma lo fuggi più nessuno allora? Oh, andiamo luci. Non si scappa più, questo perché la gente ne approfitta, hai capito, ne approfitta e poi alla fine ci piangono anche chi in 20 anni ha dato il culo, capito, a me è buco da controllarmi, quando io ho i miei doveri da seguire, quando mi chiamano sono reperibile, sono responsabile di zona e quindi devo andare poi. Se uno non lo risulta, adesso lo facciano risultare, uno l'ho mandato anche a cagare. E uno, adesso qualche piscuano aziendale di quelli proprio leccaculo, che più leccaculo non ce n'è. Dunque lui si trova 8 km fuori zona, signor Matti, sì? Ma lì chi è? Mi faccia capire. Chi è? Ma dove sta parlando? Si è presentato. Ma c'è proprio l'elenco, non vedo manco l'elenco dei miei dirigenti. Faccia una cosa, quando deve parlare con me mi faccia chiamare dal mio dirigente di zona, e mi sono dato il telefono, non mi ha chiamato. Prova a ridare. Vabbè, ti senti costretto al collo? Sì, ma ci abbiamo i responsabili, capito? Ci abbiamo i responsabili, dove io ho un rapporto abbastanza tranquillo e sereno, quindi... Non capisco perché mettano questi piscuani lì seduti a tavolino, pagati meglio di me per controllare a me. Ma lasci, impiegato di merda, ma non trovi a me. Quando parlano con me devono parlare sempre sopra di me, non questi chiponi, i chivi, assunti per controllare a me, ma non ti impicchi, ma non trovi. Infatti quando oggi è sabato, giovedì c'era una riunione a Punta Navelina, a Canica, l'ex impianto vecchio, e il mio dirigente proprio mi ha detto sei sempre pesante tu, sempre, ora bisogna perché mi faccia capire, no, questa sua, non me l'ha mai detto, faccia memoria rigorosa, io faccio un sacco di cose, quando sto lavorando, io sono totalmente attaccato al lavoro perché sono veramente attaccato e quindi non ero attento, come l'ha spiegato lui. E io gli ho risposto molto amichevolmente perché abbiamo un buonissimo rapporto. Ho detto faccia una cosa, ingegnere, le dica a quel signore, le dia nome e cognome, quando deve chiamare a me mi chiami diversamente perché sembrava che fosse al suo posto e si è messo a ridere, capito? Perché mi conosco, ma sono 22 anni già, io non... Come non ho pelle nella lingua in radio, non neanche pelle nella lingua con chi mi attacca la lavoro, non ho problemi, io capito. Se faccio fare lo faccio, se tu a me mi prendi di petto al pezzo, se mi prendi con molta filosofia, allora può darsi che vinci, ma non mi dirò mai di betto a me. Vabbè, tutto il rispetto, c'è poco da fare. C'è molta gente, la comanda a tutti. C'è molta gente che gli piace comandare e non è nessuno. Ma casino. E dopo si va in ferie e clappo, quando ritorni trovi lo stesso ambiente, quindi a cosa sono servite quelle ferie? Non sono servite proprio a nulla, perché poi ti ritrovi lo stesso ambiente e hai sempre da lottare. Uno assunto con l'interinale, figurati. Con l'interinale, siccome noi già siamo 35.000 persone, cioè c'è un'aula, c'è 35.000 persone, 35.000 dipendenti, e quindi sai, hanno call center, hanno altre attività, sicure paleoliche, hanno lavoro in tutto il mondo. E ho scoperto tramite sempre i riferimenti di zona che cosa ci permette di seguire, sì, al suo incarico naturalmente, l'hanno messo lì per seguire satellitare dove c'è un problema di macchine, se chi ha in gestione la macchina come me, io ce l'ho già da 3 anni con questo. Ce l'ho già 3 anni, io la macchina me la cambiano ogni tanto, però io ce l'ho sempre a ruota la macchina, tutti quelli che fanno il mio lavoro ce l'hanno a ruota, è reperibile e così via. E quindi questo ci permette a chi va fuori zona, a chi usa la macchina anche dopo le 2, sempre a sapere qual è il suo incarico, perché io anche ieri l'ho usato dopo le 2, sono andato a Sorso perché c'era il camion che era arrivato a ritirare il cassone dei fanghi e nessuno aveva le chiavi, poi nessuno aveva la macchina di servizio, quindi non si muove. Sono andato via per il cancello, gli ho firmato il formulario e l'ho mandato via. Quindi lui come si permette a me a dirmi perché lui è fuori zona? Ma la sedu. Prima dei documenti e poi mi chiavi, ma mi devi chiamare con molta attenzione, capito? Perché tu sei uno a un contratto determinato, che fra 6 mesi, fra un anno non ci sei più, io sono 22 anni, quindi date una gammata che non sei tu a dirmi quello che devo fare, ecco, c'ho questi livelli. Quindi bisogna stare molto molto attenti quando parli con una persona, come io faccio, attenzione. Io se non conosco la persona che devo telefonare o mi chiama, cerchiamo di capire chi siamo, sia uno che l'altro, prima di sollevare la voce. E così doveva fare lui, invece lei perché fuori da me, assidu. Chi è? Avanti, chi è? Invece mi ha detto spagnolo, mi già. Amico. Amico di sì. No, negativo, cosa ti stavo dicendo? No, stavo rispondendo, allora mi stava prendendo roba. E niente. Comunque, diciamo che ti stavo dicendo, adesso non mi ricordo più il discorso. E comunque ci ha paralizzato moltissimo sta cosa, perché io non avevo limiti. Invece adesso non te l'attento perché c'è sempre qualche imbecille che, capito, che vuole la mia macchina, come è successo qualche domenica, che giusto così vorrei, ho preso la macchina di servizio, sono sceso per dire a Ottava, no? Manco durata da Gigi, ed è arrivata l'azienda che hanno visto la mia macchina, perché sono i numeri, la numero 8 ferma Ottava, capito, cioè questi li vedi, si chiamano. C'è gente che non si fa i fatti suoi. Passa a tapparli la bocca. E gente gelosa, gente praticamente tu hai dato la macchina subito per andare a Gigi e te l'ho sgamato. perché ho sentito anche Giulio, mi si è messo a ridere. Senta Guzza, dicevo che vari anni prima, io ne conoscevo uno, sai cosa faceva? Con la macchina dell'Ene, l'andava, si svuotava sul battuio e si riempiva la macchina sua. Quelle sono cose brutte. Io sono stato responsabile di mezzi con loro di depuratori sarda per due anni. E ti posso dire che non è mai successo niente. Io di questa macchina ho due carte di credito, una della S e una dell'Agip. Non ho mai macchina, me ne ha frutti nulla, capito? Mai. Ti posso dire che con tutta la responsabilità che ho, con tutti i chilometri che faccio, sono l'unico che mensilmente ha carta carburante a fattura in mano, sia dalla S che dall'Agip, perché ti rilasciano quando pari ci sono i chilometri, perché se non imposti i chilometri la carta di credito non è valida. Sono l'unico, ma dico l'unico, non per vantarmi, l'unico del 36 che fa meno chilometri di tutti, è più di tutto. E Gasulio sempre meno di tutti, chissà perché. C'è molta gente che ci giusta, per colpa di qui si prende tutto. Io ho un amico veramente, non ti dico qua chi, ma ho un amico che ha un rifornitore. Proveranno i miei colleghi a rifornire. Questo amico ormai tutte le volte che vado a rifornire mi dice, cosa ne vedi di questo gasolio in bidoni? Gasolio in bidoni, benzina, facciamo la miscela per i decespugliatori. No, quello qualcuno viene, glielo facciamo direttamente noi. Gasolio, capito? 40 la macchina e 20 bidoni, perché? Ce ne sono a Puglia. Ma io un amico praticamente faceva il militare, quando faceva il militare c'era questo comandante che si faceva il pieno alla sua macchina. Il pieno con le colonnine militari, si faceva il pieno alla sua macchina. E un giorno questo mio amico ha detto, cazzo, lo vedete, non lo posso fare io. Ha preso, è andato con la macchina sua, si è messo 10.000 litri di benzina, c'era lì. Si ne ha bizzato lei, me l'ha detto, ma cosa stai facendo? Noi mi ha messo 10.000 litri di benzina, lo fa anche lì. Io sono il comandante, lo posso fare. Tu invece dice già abbastanza che rubo io, devi rubare anche tu. Come ho detto in faccia, ma non è quello già il problema, è che quando uno ha necessità, perlomeno nella mia azienda, problemi non ce ne sono, perché ci abbiamo anche i ticket, capito? Abbiamo anche i buoni benzina per chi usa la sua macchina. Quindi, se tu non usi la tua macchina, che sei furbo, è più fattibile avere i buoni, capito? Perché a volte a me capita che ci sono dei rientri di turno, nella mia squadra dicono proprio, ho fatto la mia macchina, quanti chilometri hai fatto? 20 anni l'hai inventato anche i 40, segnali e ti disegni, 40. Per non avere il buono da 10 euro, aspetta magari 20-30, poi glielo firmo e si fa il pieno, o si mette da giù, perché lo devi prendere, fare manfrina per far volare che cosa. Così dai adito alla gente di capire che siamo una massa di imbecilli, capito? Non funziona così. Io queste cose ci sto molto molto attento. E la stessa cosa è che uno usi, come mi ha risposto uno, un giorno, adesso questi giorni di tempo brutto, cioè la macchina si sporca, poi la mia è sempre pulita dentro, però a volte fuori sporca. Oggi ho visto il sole, ma sorso, pure il vapor non l'ha fatto. L'altro giorno uno gli ha detto, dimmi una cosa, ma anche tu c'hai la macchina nuova, no? Sì, e allora, è sempre in garage, e come entrati? Bene, caso di fiducia, pulita, ma che fai da tu? Non andate tu? A te così pinghiosa, che dentro stanno crescendo le patate, ma che siamo lì, tanto che non mi hai. Perché non frega nulla, guarda, noi abbiamo furgone in muro. Devi vedere, lui sempre ci prende, lo usa questo, lo usa l'altro. Devi vedere come sono diventati in pochi mesi questi furgoni. Tutti gli specchietti fasciati, tutti graffiati, tutti Io qua, cioè, hanno preso quello che uso io, che sta ricaricato una bella lataretta, e poi si è ammentato con le mattonette, si è ammentato, dice i miei nipoti, si è ammentato che deve proprio il muratore, frena di corpo, cazzo mi fa la pedala davanti, che si è mai fondato in mezza cabina. Per carità, per carità, lo avrei fatto pagare, ma io queste cose non sono... Io bisticcio Dio, attacco sempre i miei colleghi per queste cose, attacco sempre, perché a questo infatti lui sfotto il tuo, ecco perché, è perché non è la tua che non te ne frega niente, però la guidi tu, quindi sono convintissimo al 100% che come sei nella macchina, sei anche a casa tua, ma troppo giorno mi sei mai aiuto, ma è meglio che non vi venga, sicuramente. Sicuramente è meglio che non ci venga, perché l'ordine, la pulizia nasce dalle persone. Se tu non sei ordinato con la roba degli altri, non sei pulito con la roba degli altri, mi posso immaginare con la roba tua cosa sei. Sicuramente sei un pigliaroso, quelli tu. A volte di come ti sei vissuto, che andavo il vestiario un mese fa, che ti vuoi sempre una pesce roba, è nato. Hai detto, fai una cosa, io vado lontano, vai, ma tu vai, vai che già parli, che sono le 8, vai che devi essere già alla prova, io avviati. Via. Ma non c'è cos'è qua, io puoi dire, il mio metodo, quello che uso io, ogni sabato lo lavo dentro, fuori, tutto quanto, poi vedete che ho fatto buona in campagna e ti lascia brutto, tutto bello di frango trento, ci lascia la paglia sopra, alla fine poi mi sono rotto le palle anch'io, capito? Gli ho detto, beh, va a arrangiti, io mi pulisco la cabina, tutto il resto va arrangiato in me. Ma infatti, a quel punto lì, guardino tutti, visto che lo usano tutti, no, la mia... Mi lascio quando ero in ferie, che sono rientrato, sì, era sporca un pochino fuori, però dentro, a Chiusano. Poi quando vado a prendere la mia macchina, quella che è in dotazione, la trovo sporca, faccio un casino in Gesù Cristo, quindi stanno cercando di capire le mie esigenze, tutto qua. Va bene, già, mi allontano dalla radio, se ci sei ci sentiamo dopo, dai, una penichella di un'oretta, mi sono qui tra curto, mi sono fatto le 6 stamattina. A botto. Allora se c'è già un po', se risponde qualcuno. Yeah, buon riposo, vai, ci sentiamo dopo. Avanti, già va, ci si. Ampi. Ma comunque è proprio deve essere il servizio. Attento, Claudio, ci si. No, Claudio ha fatto un correttivo. Ciao, già, stavo provando questo piatto apparato che non me lo ricordavo più come funzionava. Che apparato? Ma sta facendo? Sì, sì. Allora, vediamo un po', ma sì, è buono come radio, sì. Un tempo, dobbate. È un tempo, ma è buono come radio, sì. Sì, sì, va benissimo. Torna indietro un po'. da 9.15 intorno a 9.05. Questo è l'eco, forse, guardio. Ma che apparato è questo? Ti ho sentito io, ti ho detto, dai, non controllo, perché non stavo scendo un po'. bene e poi si è uscito un po' male, si è uscito più saltrati tutto. Ah sì, no, non era in casa, era a casa, stavo provando il baracchino, il 48 di Pierpaolo, che lo sentivo il contatto a vedere se era il difetto della barra o se era il difetto del baracchino. No, si è portato di frequenza la, il 48, ora c'era il meccanico Pierpaolo, mio figlio, e niente, fate da parte, devo andare a metà a controllarlo. Ah, pensavo che fossi in casa. Avanti, chi chiama? Italia, Nord Sardegna, risponde, avanti. Turchia, Turchia, attento collega della Turchia, se ascolti la città di Sassari, Nord Sardegna, Italia. Good morning, my friend, in compagnia dell'amico Gigi, avanti Gigi per la Turchia. Turchia, Istanbul. Non posso dare i miei, che sono, io sono segreto come io dammi il controllo, adesso ci sto, sto facendo bene oggi. Sì. Ho sistemato tutto adesso, adesso funziona bene. Trasmissione, ricezione, smite tutto. E cos'era Antonio? Ma quel punto là se ci sono quel punto, cos'era? Quello Ranger. Il Ranger questo è. E cosa ci ha detto? Facciamo schifo ieri, ci vuoi tutto. E adesso ovviamente funziona, si è tornato a posto e abbiamo passo contatto, c'era, a parte dei finali. Ah, Stefano è contento, va. Adesso il telefono dico che è pronto, così lo puoi usare in macchina tranquillamente, se vuoi usarlo. Ah? Antenna ne ha. Sì, che c'è la magnetica. KK. Cazzo. Bene, bene, tanto bene. Allora stasera possiamo festeggiare. Sì, sì. Ho già sistemato un amplificatore. Sono il mio fratello, poi l'altro è l'altro Gianpaolo. Ci devo fare ancora un sintonizzatore e due piastre. Prima le faccio fuori. Devi far fuori il sintonizzatore e due piastre. Sì, ya. Perché non le metti sull'occasione? Io ho messo su subito.it la moto, mi ha telefonato, c'è cioè, 3 o 4. Allora devi stare a dimenticare. Già quando sono andato da Guido Baracuru della Provenzano a portargli un video di trattore, voleva 5 euro, ma sto scherzando, se non con un nuovo fiammante. Mentre lui vendeva 20 doveva guadagnarci. Allora ho detto, fa una cosa. Fai finta che non ti ho detto niente, gli ho detto. Sono arrivato a casa, me lo sono tenuto e c'è addirittura 150 videocassette, cioè. Tutti i film nuovi. Ricordo, ma anche la metà li ho visto, se non ne ho visto due di quelle videocassette, non di più. Quindi me le sono tenute io e me le sono lasciate qua. Fra 50 anni, quando valranno 2,50 euro, allora le posso anche vendere. Ho opzionato una cosa, ho preso un DVD e a fianco c'è il videoregistratore per le cassette, così almeno ci sono tutti e due. Se voglio avere le cassette, guardo le cassette perché c'è tutta la collezione di Dario Argento in cassetta, oltre vabbè avere film comici, un sacco di roba. E in più c'ho i DVD, quando voglio mi guardo i DVD, quando voglio mi guardo le cassette. E vabbè, DVD io ne ho uno, due, tre ne ho DVD e due videoregistratori. Ne ho un altro smontato che devo mettere in una cinghietta, che è nuovo, è anche funzionante. A voglia, io li metto uno sopra l'altro, già in camera mia ci sono già messo un DVD, il videoregistratore e il ricevitore di quelli di satellitari. Di Sky, poi un rubrico di quelli del tappeto che non valgono niente, quello me lo metto in salone, ricevitore satellitare, me lo devo programmare io, non è quello già programmato, quindi è più bello, me lo devo mettere le frequenze io, quindi da 999 canali come ricevitore normale, la prima serie è questo, del tappeto, stream. Questo che aveva già fatto, quello lì è un usuraio, cazzo, si paga 2 lire e se li rende il doppio. E già lo so come hai fatto, se mio fratello gli ha portato la motosega nuova nuova dell'accanto, arancione, la luce nuova l'ha usata 2 mesi, neanche in campagna, tagliare gli alberi e rami piccoli, non rami grandi. Non ha manco sfruttata, 50 euro gli ha dato e basta. Però l'unica cosa che si è preso è un computer di quelli portati, 150 euro, bello, è andato bene, diciamolo, è andato bene. Infatti come se avesse pagato un computer 200 euro. Che computer è? Bisogna vedere cosa è. Un Acer è portatile. Funziona bene. La voglia funziona bene. Ha preso uno, lo sai, un portatilino 50 euro. 50 euro e però gli ha detto che non funzionava il mouse, dove c'era il mouse, e detto, vabbè, già quelli li avevano metà posto, è stato gli aggiusti il computer, si è abbinato 50 euro. Bisogna avere fortuna, bisogna avere magari qualcuno che lo lascia lì così, non ne frega niente. Quindi, ma ci sono i computer grandi, i miei 50 euro, quanti ne vuoi ce ne so? Solo la base per dire. Poi il resto già si trovano. Ma oramai i computer sono facendo più importanti, li stanno prendendo. Chi ne prende fissi? Più che per ufficio roba del genere, io ce l'ho fisso a casa, ce ne ho un ufficio e 5 portanti. Ma nessuno ti usava il portante, dicono fisso lo usa Marco quando deve andare a vedere i Pokémon e questa roba qua. Ah, ho capito. No, io proprio mi computer con la ginocchia lampato, non va bene, non funziona bene, è qui. L'unica fortuna che ho che io vedo tutto gratis, non c'è bisogno di fare cose, perché c'è l'hotel che mi dà il segnale gratis. Sì, perché te lo lasciano aperto, se te lo chiudono non vedi più nulla. Ehi, se me lo chiudo, quando fa di là, non è adesso. Puoi mettere in protezione, quindi chi cerca di entrare non riesce a entrare. No, non è la protezione, capito? Non è niente. Anche perché i clienti quando vanno lì con portati si vanno a agganciare, capito? Wi-Fi. Quindi sarà molto molto difficile che faccia la protezione. Non preoccuparti. Io ne ho uno che è fermo. E uno che è fermo non fa manco aggiustarlo perché si è bruciato. È bruciato non te ne fai niente. No, quello che ho io è il piccolino, capito, non ce la fai vedere i filmati. E anche quando metto su YouTube a ascoltarmi il quadro si è tratteggiato un po'. Ed è tratteggiato? È un Pentium 3 di quelli di prima serie M, credo che sia, il computer. Ci vuole tutta la scheda nuova, ci vuole la scheda audio, la scheda video, ce ne vuole poco di malassotti. Beh, fai prima pigliati lo nuovo. Che fatti? Già un pigliato nuovo, non adesso. Seguito non sono appassionato io di computer. Mi sono fatto il sito, quello sì, non l'ha fatto mia sorella, e non mia sorella, mia nipote me l'ha fatto il sito. E quindi sono me che non ci vado su Facebook. Il primo giorno che ci sono entrato mi dai essere lente, ha detto no. Allora forza, ha detto, prima, siccome è lento, prima di quando mandavo il coso, mi trasmetteva altre due volte, ha detto no, ora me la volta, così faccio entro lento, mi bevo tu una tira libera e poi c'ho la risposta, no. Vabbè. Non è questo che faccio in questione, che bisogna essere a passo coi tempi. Adesso per dire, per l'iscrizione, bambini a scuola, solo al computer si può fare. Sì, vabbè, se uno sa usare che... Capito? Va direttamente a cosa se lo fa fare, paga e fa l'iscrizione al computer lo stesso, qual è il problema? Ci sono come si chiama, dove andare? Vai lì, prendi un computer in affitto, paghi 10-15 euro, e fai finire un ragazzo, un bambino, ormai sono tutti bravi i bambini a usare il computer qui. E ti fa l'iscrizione lui stesso, ti metti i dati e poi si iscrive. C'è gente che magari non lo sa usare, come dici tu, io l'avrei messo sia al computer che a scuola, ma per smaltire bene le cose, capito, per non lavorare molto loro, fare lavorare a te. Tu se ti dai lo stipendio. Vabbè, quello c'è vero. Davvero, mucca duro, davvero. Mi stavo cercando di riposarmi, invece Marcolino prima cercò il cazzo vicino a me. Poi adesso è andato, meno male, è andato a catechismo con mia moglie. E adesso mi rilasso un po'. E non fa niente, non fa niente. basta che vado, fanno la passa a Stefano un attimo, ti rientro subito. Ora, attento, vedo ciò, primo centro ci ascolti. Thank you.